America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, risale la tensione sulla questione del fiscal cliff. Tomorrow the House will pass legislation to make permanent tax relief for nearly every American. 99.81% of the American people. Avete sentito John Boehner, il presidente della Camera repubblicana a Washington, che a questo punto ha deciso di giocare al rilancio e ha tirato fuori dal cappello il piano B. Si parlava di questo piano B, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, ma qual è l'accelerazione che Boehner ha deciso di portare il piano B in Congresso oggi per un voto alla Camera? Il presidente Barack Obama in una conferenza stampa ha già minacciato il veto, sentiamolo. But what I'm not going to do is to extend Bush tax cuts for the wealthiest 2% that we can't afford, and according to economists will have the least positive impact on our economy. Avete sentito Barack Obama, che già qualche giorno fa aveva detto che avrebbe posto il veto a questo piano B. La Camera può approvarlo perché ha la maggioranza con i repubblicani, però non riuscirà poi a farlo passare al Senato. Dunque è una gran perdita di tempo, è una finta, è la solita manfrina politica, il solito muro contro muro, di cui, devo dire, gli americani sono molto stanchi. Il presidente Barack Obama aveva cercato di fare un passo in avanti, aveva portato al livello di $400,000 il reddito tassabile che sarebbe stato soggetto all'aumento delle imposte, facendolo salire dunque dal reddito di $250,000, e ieri in conferenza stampa è intervenuto proprio su questo e ha attaccato i repubblicani. Sentiamo di nuovo Obama. The Republicans in the House and Speaker Boehner, I think we're in a position to say we've gotten a fair deal. Sono perplesso, dice il presidente. I repubblicani fanno delle proposte contro la logica. Io ho cercato di andare a metà strada. Una conferenza stampa, quella di ieri, piuttosto tesa. Abbiamo presentato, continua il presidente, un piano responsabile ed equilibrato. Continueremo a discutere, però sono loro che devono fare il loro lavoro, prendere delle decisioni che tutelino la classe media. Io lancio una sfida, dice Obama. Voglio che l'accordo per ridurre il disavanzo pubblico americano sia preso prima di Natale. Beh, prima di Natale ormai stiamo parlando, visto che oggi siamo al 20, stiamo parlando di 5 giorni, con in mezzo un fine settimana, la vigilia del Natale e il Natale. Quindi praticamente Obama chiede che il risultato ci sia entro venerdì. Then the president will have a decision to make. He can call on the Senate Democrats to pass that bill, or he can be responsible for the largest tax increase in American history. In questa giornata frenetica di ieri, la palla è tornata nel campo di Boehner, ed è stato lui che, parlando coi giornalisti dal Parlamento, ha lanciato un'accusa al presidente Barack Obama e ha detto: sarà responsabile del più alto aumento di aliquote della storia degli Stati Uniti se non accetterà il piano B. Il piano B, ve lo ricordo, è l'ultima invenzione del Partito Repubblicano, prevede l'estensione dei benefici fiscali che erano stati concessi dal presidente Bush e che sono in scadenza per tutti coloro che hanno un reddito annuale fino a $1,000,000. E quindi i repubblicani credevano di aver già fatto una concessione accettando che ci fosse un aumento delle aliquote, e dunque questa cosa la metteranno nero su bianco per votarla in Parlamento. What separates us is probably a few $100 million. The idea that we would put our economy at risk because you can't bridge that gap doesn't make a lot of sense. Obama di nuovo interviene, è stato un ping pong questo fra il presidente americano e il presidente della Camera, e come vi dicevo risponde alle accuse dei repubblicani dicendo che saranno loro invece a mettere l'America in ginocchio con delle proposte che non hanno alcun fondamento, perché aumentare le aliquote per coloro che hanno dei redditi superiori ai $400,000 è una cosa che viene condivisa generalmente dalla maggioranza degli americani, secondo sempre il presidente Barack Obama, e soprattutto una misura che porterà aumenti delle entrate nelle casse dello Stato per quasi $1,200 miliardi. Dal punto di vista tecnico la proposta repubblicana porterebbe soltanto $1,000 miliardi. Barack Obama inizialmente voleva $1,600 miliardi di nuove entrate attraverso gli aumenti delle aliquote. Dunque il presidente Barack Obama è sceso da 1.600 miliardi a 1.200 miliardi, sempre in 10 anni. I repubblicani sono saliti da circa 800 miliardi a circa 1.000 miliardi. Ecco, il punto di incontro di 1.200 poteva essere anche accettabile, se non che il presidente Barack Obama ha anche introdotto degli elementi tecnici dal punto di vista dell'inflazione che finiscono poi per far lievitare questo aumento a 1.300 miliardi. Insomma, ci sono molte virgole, molti conti, molte complicazioni e soprattutto ci sono delle tensioni politiche veramente palpabili. Io mi auguro che riescano questi signori a far prevalere il senso di leadership, il senso di responsabilità nei confronti del paese, ma anche nei confronti dell'economia mondiale, dell'economia internazionale. E devo dire, se non si supererà questa barriera, questa scadenza che ha imposto il presidente Obama, cioè prima di Natale, prima del 25 di dicembre, ci saranno ancora dei giorni per poter negoziare, perché la scadenza tecnica prima dell'ingresso fatidico di questo fiscal cliff è per il 31. America 24. Violence that we cannot accept as routine. So I will use all the powers of this office to help advance efforts aimed at preventing more tragedies like this. Vi faccio risentire Barack Obama, perché in realtà, anche se vi ho parlato finora di fiscal cliff, perché è la cosa che ci preoccupa di più, il presidente americano ieri ha dedicato e ha convocato questa sua conferenza stampa per una ragione molto specifica, per parlare dell'eccidio di Newtown e per parlare del suo progetto che vuole introdurre dei limiti al porto d'armi. Lo ha fatto annunciando la formazione di un gruppo di studio, di una commissione che sarà presieduta dal vicepresidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Biden era con lui in questa conferenza stampa, non ha voluto dare anticipazioni o dettagli, ma ha promesso che quando pronuncerà il discorso sullo Stato dell'Unione, un discorso che pronuncerà a Camere riunite, cercherà di dare dei dettagli. Io immagino che in quel momento, in questo momento solenne in cui l'America si raccoglie in Congresso, il presidente americano dà uno spaccato su quelle che sono le condizioni del paese, ci saranno fra il pubblico probabilmente alcuni dei genitori dei bambini uccisi. Ecco, il presidente li porterà ad esempio di genitori che hanno sofferto e li porterà ad esempio di qualche cosa che il Congresso può fare per evitare che altri genitori soffrano. Obama ha usato anche di nuovo parole così molto tenere nei confronti dei bambini che sono stati uccisi. Sul fronte delle notizie abbiamo saputo che la madre di Adam Lanza era andata via per un paio di giorni, era poi appena ritornata, era andata in vacanza in New Hampshire, era poi ritornata a casa, e abbiamo altri dettagli così un po' drammatici, ma sembra che il figlio le abbia sparato 4 colpi di pistola in testa mentre dormiva nel suo letto. È stato subito dopo che ha preso le armi ed è andato alla scuola. Ecco, sono dettagli che vengono centellinati, sono dettagli che non ci spiegano il perché di questa decisione di andare in questa scuola e compiere un massacro. US Secretary of State Hillary Clinton is recovering from a concussion. Hillary Clinton, il segretario di Stato, un'altra notizia di ieri, devo dire, ieri abbiamo avuto un turbinio di eventi che sul piano delle news ci hanno travolto qui in America. E allora, qual è la storia? Beh, la storia è che John Bolton, che direi è un teorico di politica estera della destra americana, ha accusato Hillary Clinton di aver fatto finta di aver avuto una piccola commozione cerebrale dopo la sua caduta. Lo ricorderete, non era stata bene, era caduta e aveva battuto la testa e era stata ricoverata in ospedale. Insomma, ci sono stati un po' di preoccupazioni, poi tutto si è rimesso più o meno a posto. Ecco, ma Bolton dice che l'ha fatto apposta perché non voleva esporsi, voleva avere una scusa per non esporsi nella giornata di ieri, quando una commissione ha dato il resoconto su quello che è successo a Bengasi. Beh, devo dire che è stato un resoconto molto duro. La responsabilità primaria ricade proprio sul Dipartimento di Stato e ci sono state delle ricostruzioni che hanno chiarito come a livello ministeriale sono state commesse delle leggerezze piuttosto gravi. Il risultato qual è? È che 3 funzionari del Dipartimento di Stato, di questi 2 molto importanti come Eric Boswell e Charlene Lamb, ieri hanno dato le dimissioni perché hanno sottovalutato le richieste che giungevano da Bengasi, anzi da Tripoli, l'ambasciata, che imploravano di rafforzare la scorta, di mandare dei marine, di far sì che ci fossero delle forze per proteggere i diplomatici americani in Libia. Sappiamo che le risposte dal Dipartimento di Stato sono state delle risposte davvero deludenti, superficiali e in qualche modo arroganti. E su questo, su queste email, su questi scambi di corrispondenza che la commissione nominata proprio da Hillary Clinton ha costruito il suo rapporto, e questo rapporto si chiama ARB, Accountability Review Board, sono stati denunciati gli errori e le carenze delle strutture in cui operavano i 3 dimissionari. Le strutture erano l'ufficio della sicurezza diplomatica e quello degli affari medio orientali, che hanno interagito per capire cosa si doveva fare in termini di protezione. Non credo comunque che con questo rapporto al Dipartimento di Stato si chiuda il capitolo Bengasi. Non credo che Hillary Clinton abbia fatto finta di star male per non apparire. È stata sempre molto trasparente, ha provato questo rapporto. Le conseguenze le abbiamo viste. In qualunque struttura possono esserci delle debolezze. L'importante, credo, sia guardare in avanti. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sia tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Vi dicevo che abbiamo cominciato lo spirito natalizio, dunque faremo solo canzoni natalizie per un po' di giorni. Oggi un classico, super classico. Rudolph the Red Nose Reindeer. Rudolph la renna col naso rosso. You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen, Comet and Cupid and Donner and Blitzen, but do you recall the most famous reindeer of all? Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!